Questo mi ricorda, proseguì, infilandosi la mano nella tasca della giacca con aria distesa, se avessi bisogno di un precedente, capite? Ma di precedenti non ne abbiamo mai bisogno per la cosa giusta. Ma c'è Chatham, ecco. Non posso dire che avrei appoggiato Chatham o Pete il giovane. Lui non era un uomo di idee e noi vogliamo idee, capite? Al diavolo le vostre idee. Noi vogliamo la riforma elettorale, disse una voce sonora e sgraziata dalla folla sottostante. Immediatamente l'invisibile Pulcinella, che finora aveva seguito Mr. Brooke, ripeté: Al diavolo le vostre idee, noi vogliamo la riforma elettorale! La risata fu più sonora che mai e per la prima volta Mr. Brooke, mentre taceva, udì distintamente l'eco beffarda, ma sembrava ridicolizzare chi l'aveva interrotto e da questo punto di vista era incoraggiante. Così egli ribatté con amenità. C'è qualcosa di vero in quello che dite, mio buon amico, e per cosa ci riuniamo se non per dire quello che pensiamo? Libertà di opinione, libertà di stampa, libertà, cosa di quel genere. La riforma, ecco, avrete la riforma. A questo punto Mr. Brooke si interruppe un momento per mettersi il monocolo e prendere la carta dal taschino della giacca, con la sensazione di essere pratico e di venire ai particolari. L'invisibile Pulcinella ripeté: Avrete il conto, Mr. Brooke. Competizione elettorale e per un seggio fuori del Parlamento, come da bolla di consegna, 5.000 sterline, 7 scellini e 4 soldi. Mr. Brooke, fra lo strepito delle risate, si fece rosso, lasciò cadere il monocolo e, guardandosi intorno con aria confusa, scorse l'immagine di se stesso che gli si era avvicinata. Un attimo dopo la vide penosamente insaccherata di uova. Gli tornò un po' di coraggio e anche la voce. Le buffonate, gli scherzi, mettono in ridicolo la prova della verità. Tutto questo va molto bene. A questo punto uno sgradevole uovo venne a spiaccicarsi sulla spalla di Mr. Brooke mentre l'eco diceva: Tutto questo va molto bene. Poi giunse una gragnuola di uova, indirizzate soprattutto all'effigie, ma qualche volta colpendo l'originale come per caso. Ci fu un torrente di altri uomini che si fece largo fra la folla. Fischi, grida, muggiti e pifferi provocarono un parapiglia ancora maggiore perché si strillava e ci si dava da fare per metterli a tacere. Nessuna voce avrebbe avuto forza sufficiente per sollevarsi al di sopra del tumulto e Mr. Brooke, sgradevolmente imbrattato, non resse più. La frustrazione sarebbe stata meno esasperante se tutto ciò fosse stato meno giocoso e infantile. Un assalto serio di cui il giornalista può ammettere che mise in pericolo le costole del dotto gentiluomo. Più rispettosamente, testimoniare che le suole degli stivali di quel gentiluomo erano visibili al di sopra della ringhiera produce forse una maggiore consolazione. Mr. Brooke rientrò nella sala del comitato dicendo con la maggior noncuranza possibile: Questo è un po' un peccato, sapete? Mi sarei fatto ascoltare, ma non me ne hanno lasciato il tempo. Avrei preso in esame il disegno di riforma elettorale di lì a poco, capite? Aggiunse lanciando un'occhiata all'Adisla. Comunque le cose si metteranno tutte a posto al momento della candidatura. Ma che le cose si sarebbero messe a posto non fu opinione unanime. Al contrario, quelli del comitato erano piuttosto scuri in volto e la personalità politica di Bressinger era tutta indaffarata a scrivere, come se stesse architettando nuovi espedienti. È stato Bauer, disse Mr. Standish in tono evasivo. Lo so bene, come se l'avessero annunciato pubblicamente. È un ventriloquo eccezionalmente bravo e l'ha fatto eccezionalmente bene, perdio. Hawley l'ha invitato a pranzo ultimamente. C'è un fondo di talento in Brouwer. Beh, sapete, non me ne avete mai parlato, Standish, altrimenti l'avrei invitato a cena, disse il povero Mr. Brooke che si era accollato un sacco di inviti per il bene del suo paese. A Middlemarch non c'è una persona più spregevole di Bauer. Sbottò Ladislav indignato, ma pare che siano sempre le persone spregevoli a far mutare la situazione. Will era completamente fuori dai gangheri con se stesso, oltre che col suo principale, e andò a chiudersi nelle sue stanze con una mezza idea di mandare a quel paese il Pioneer assieme a Mr. Brooke. Perché sarebbe dovuto restare? Se l'abisso incolmabile fra lui e Dorothea sarebbe mai stato colmato, questo avrebbe potuto realizzarlo andandosene via e prendendo un impiego completamente diverso piuttosto che restando qui e guadagnandosi un meritato disprezzo come tirapiedi di Brooke. Poi giunse il sogno giovanile delle meraviglie, che avrebbe potuto compiere, in 5 anni per esempio. Gli scritti politici, i discorsi sarebbero stati stimati ancor di più ora che la vita politica stava per estendersi e coinvolgere maggiormente la nazione, ed essi gli avrebbero potuto conferire una tale distinzione che non avrebbe dato l'impressione di chiedere a Dorotea di abbassarsi a lui. 5 anni, se solo avesse potuto essere certo di premerle più di altri, se avesse solo potuto farle sapere che si sarebbe tenuto lontano finché non avrebbe potuto confessarle il suo amore senza umiliarsi, allora se ne sarebbe potuta andare via tranquillamente e intraprendere una carriera che a 25 anni sembrava abbastanza probabile nell'ordine stesso delle cose, dove il talento procura fama e la fama qualsiasi altra cosa piacevole. Egli sapeva parlare e sapeva scrivere, poteva padroneggiare qualsiasi argomento se voleva e intendeva sempre parteggiare per la ragione e per la giustizia, in cui avrebbe potuto portato tutto il suo ardore. Perché un giorno non si sarebbe potuto sollevare al di sopra della folla e sentire di essersi guadagnato bene quella preminenza? Senza dubbio avrebbe lasciato Middlemarch, sarebbe andato a Londra e si sarebbe preparato alla celebrità studiando legge. Ma non immediatamente, non fino a quando lui e Dorotea non si fossero scambiati un qualche segnale. Non sarebbe stato soddisfatto finché lei non avesse saputo perché, anche se egli fosse stato l'uomo che lei voleva sposare, egli non l'avrebbe sposata. Perciò doveva conservare il proprio posto e supportare Mr. Brooke ancora per un po' di tempo. Ma ben presto ebbe ragione di sospettare che Mr. Brooke l'aveva preceduto nel desiderio di interrompere i loro rapporti. Delegazioni dall'esterno e voci dal cuore avevano contribuito ad indurre quel filantropo a prendere una misura più drastica del solito per il bene dell'umanità, vale a dire a ritirarsi per favorire un altro candidato a cui egli lasciava i vantaggi della sua macchina propagandistica. Lui stesso la definì una misura drastica, ma osservò che la sua salute era meno capace di sopportare l'eccitazione di quanto si fosse immaginato. Mi sono sentito un malessere al petto. Non va bene spingere la cosa troppo in là, disse Ladislav spiegandogli la faccenda. Devo fermarmi. Il povero Kesebo è stato un avvertimento, capite? Ho fatto dei grossi anticipi di denaro, ma ho scavato un canale. È un lavoro piuttosto grossolano, questa propaganda elettorale, Ladislav? Scommetto che ne siete stanco. Comunque abbiamo scavato un canale col Pioneer, abbiamo dato una direzione alle cose e così via. Un uomo più ordinario di voi ora potrebbe tirare avanti. Più ordinario, capite? Volete che lasci perdere? Chiese Will mentre un rapido rossore gli imporporava il volto, alzandosi dalla scrivania e facendo 3 passi con le mani in tasca. Sono pronto a farlo in qualsiasi momento vogliate. Quanto a volere, mio caro Ladislav, ho la massima stima delle vostre capacità, sapete? Ma riguardo al Pioneer, mi sono consultato un po' con alcuni degli uomini della nostra parte e loro sono propensi a prenderlo in mano, a darmi un certo indennizzo, a farlo continuare in effetti. E date le circostanze, potreste aver voglia di lasciar perdere, potreste trovare un campo migliore. Questa gente potrebbe non avere quell'alta considerazione di voi che io ho sempre avuto, come un alter ego, un braccio destro, sebbene mi aspettassi sempre che faceste qualcos'altro. Penso di fare una scappata in Francia, ma vi scriverò qualsiasi lettera, sapete? Per Altorpe e gente di quel genere. Ho conosciuto Altorpe. Vi sono estremamente obbligato, disse Ladislav in tono orgoglioso, dato che avete intenzione di separarvi dal Pioneer, non è necessario che vi disturbi per i passi che farò. Può darsi che scelga di restare qui per il momento. Dopo che Mr. Brooke lo ebbe lasciato, Will si disse. Gli altri della famiglia lo hanno spinto a liberarsi di me e a lui adesso non importa che io me ne vada. Io resterò finché mi piacerà. Me ne andrò di mia spontanea volontà e non perché loro hanno paura di me. Capitolo 52. Quella sera di giugno in cui Mr. Fairbrother seppe che avrebbe avuto la parrocchia di Lowick, ci fu gioia nel salotto all'antica e persino i ritratti dei grandi avvocati sembravano osservare soddisfatti. Sua madre lasciò il tè e la fetta di pane tostato intatti, ma si sedette con la consueta graziosa compostezza, mostrando la propria emozione solo con quel rossore alle guance e quella luminosità negli occhi che per un momento fugace rendono una vecchia signora identica in modo commovente alla sua remota persona giovanile. Disse con decisione: «La maggiore consolazione, Camden, è che l'hai meritato». Quando uno trova un buon lavoro, madre, metà del merito deve venire dopo, disse il figlio al colmo del piacere senza tentare di nasconderlo. La felicità sul suo volto era di quel genere attivo che sembra avere sufficiente energia non solo per lampeggiare verso l'esterno, ma per illuminare interiormente una visione indaffarata. Sembrava di scorgere pensieri oltre che delizia nei suoi sguardi. Ora, zia, egli proseguì, sfregandosi le mani e guardando Miss Noble, la quale stava facendo delicati rumorini da castoro. Ci saranno sempre caramelle di zucchero sul tavolo perché voi le rastrelliate e le diate ai bambini. E avrete un sacco di calze nuove da regalare e rammenderete le vostre più che mai. Miss Noble accennò di sì col capo al nipote, con una risata sommessa e per metà impaurita, consapevole di aver già fatto cadere una zolletta di zucchero nel cestino, forte della nuova promozione. Quanto a te, Winnie, proseguì il parroco, non mi opporrò se vorrai sposare qualsiasi scapolo di Lowick, Mr. Solomon Thurston, per esempio, appena mi accorgerò che sei innamorata di lui. Miss Winifred, la quale frattanto aveva guardato il fratello e pianto di tutto cuore, come era il suo modo di gioire, sorrise fra le lacrime e disse: Devi darmi l'esempio tu, Ken. Tu devi sposarti adesso. Di tutto cuore, ma chi è innamorata di me? Sono un vecchio malandato, disse il parroco alzandosi, spingendo via la sedia e guardandosi. Cosa ne dite, madre? Sei un uomo stupendo, Camden. Anche se non hai una figura d'uomo fine come quella di tuo padre, disse la vecchia signora. Vorrei che sposassi Miss Garth, fratello, disse Miss Winifred. Ci porterebbe tanta vivacità a Lowick. Molto bene. Parli come se le signorine fossero legate perché uno le scelga, come galline al mercato, come se io dovessi solo chiedere e chiunque mi accetterebbe, disse il parroco, non curandosi di specificare. Noi non vogliamo chiunque, disse Miss Winifred. Ma a voi andrebbe bene Miss Garth, madre, non è vero? La scelta di mio figlio sarà la mia, disse Mrs. Fairbrother con saggezza maestosa. E una moglie sarebbe assai ben accolta, Camden. Ti mancherà giocare a whist a casa quando andremo a Lowick. E Henrietta Noble non è mai stata una giocatrice di whist. Mrs. Fairbrother chiamava sempre la sua minuscola sorella anziana con quel nome magnifico. Adesso farò meno del whist, madre. Perché mai, Camden? Ai miei tempi il whist era considerato un divertimento innegabile per un buon prete, disse Mrs. Fairbrother, all'oscuro del significato che il whist aveva per il figlio, parlando con una certa asprezza, quasi si trattasse di qualche pericolosa approvazione di una nuova dottrina. Avrò troppo da fare per dedicarmi al whist. Avrò due parrocchie, disse il parroco, preferendo non mettersi a discutere sulle virtù di quel gioco. Aveva già detto a Dorotea. Non mi sento obbligato a rinunciare a St. Bolos. Sarà sufficiente protesta contro l'accumulo di benefici ecclesiastici che vogliono riformare se darò a qualcun altro la maggior parte del denaro. La cosa più importante non è rinunciare al potere, ma usarlo bene. Ho pensato a questo, disse Dorotea, per quanto riguarda la mia persona. Penso che sarebbe più facile rinunciare al potere e al denaro che tenerli. Mi sembra assai disdicevole che io abbia questo patronato, eppure ho pensato che non avrei dovuto permettere che fosse usato da qualcun altro invece che da me. Sono io che dovrò comportarmi in modo che non vi possiate pentire del vostro potere, disse Mr. Fairbrother. Era uno di quei caratteri in cui la coscienza diviene più attiva quando il gioco della vita cessa di irritarla. Non faceva mostra di umiltà sull'argomento, ma in cuor suo provava una certa vergogna che la sua condotta avesse mostrato negligenze da cui erano esenti altri che non ottenevano benefici. Ero solito desiderare spesso di aver fatto qualcos'altro invece del prete, disse Lydgate. Ma forse sarà meglio che cerchi di fare di me il prete migliore che mi riesce. Questo è il punto di vista di chi ha una buona posizione, lo capite? Per cui le difficoltà sono molto semplificate, concluse sorridendo. Il parroco allora aveva davvero la sensazione che la sua parte di doveri sarebbe stata facile. Ma il dovere ha l'abitudine di comportarsi in modo inaspettato, qualcosa come un amico robusto a cui abbiamo amabilmente chiesto di venirci a visitare e che si spezza le gambe varcata la soglia di casa nostra. Neppure una settimana dopo, il dovere si presentò nel suo studio nella persona di Fred Vincey, ora tornato dall'Omnibus College con la sua laurea. Mi vergogno a disturbarvi, Mr. Fairbrother, disse Fred, il cui bel volto aperto era propiziatore, ma voi siete l'unico amico con cui posso consultarmi. Vi ho già detto tutto una volta e voi siete stato così buono che non posso fare a meno di tornare da voi. Siediti, Fred. Sono pronta ad ascoltare e a fare qualsiasi cosa posso disse il parroco, che era indaffarato a imballare alcuni piccoli oggetti per il trasloco, e proseguì il proprio lavoro. Volevo dirvi, Fred esitò un attimo e poi proseguì a precipizio. Adesso potrei diventare prete e in realtà, da qualunque parte guardi, non riesco a vedere nient'altro da fare. Non mi piace, ma so che è estremamente duro dire così a mio padre, dopo che ha speso tanti soldi per istruirmi in vista di questo. Fred tacque di nuovo un attimo e poi ripeté: E non riesco a trovare nient'altro da fare. Ne ho davvero parlato con tuo padre, Fred, ma non sono riuscita a smuoverlo dalla sua idea. Ha detto che era troppo tardi. Ma ora hai attraversato un ponte. Quali sono le altre difficoltà? Semplicemente che non mi piace. Non mi piace la teologia e predicare, sentirmi obbligato ad avere un aspetto serio. Mi piace cavalcare per la campagna e fare quello che fanno gli altri. Non intendo dire che voglia essere una cattiva persona in nessun modo, ma non mi attira il genere di cose che la gente si aspetta da un prete. Eppure, cos'altro devo fare? Mio padre non mi può dare nessun capitale, altrimenti potrei dedicarmi all'agricoltura e nel suo lavoro non c'è posto per me. E naturalmente non posso cominciare a studiare legge o medicina ora, quando mio padre vuole che mi guadagni qualcosa. Si fa presto a dire che sbaglio a farmi prete, ma quelli che dicono così, tanto varrebbe che mi dicessero di andare per i boschi. La voce di Fred aveva assunto un tono di lamentosa protesta e Mr. Fairbrother sarebbe stato incline a sorridere se la sua mente non fosse stata troppo presa a immaginare più di quello che Fred gli diceva. Trovi delle difficoltà sulle dottrine, sugli articoli? Egli chiese, cercando con tutta la sua forza di pensare alla domanda semplicemente in riferimento a Fred. No, penso che gli articoli siano giusti. Non sono pronto a confutarli con nessun argomento. E cosa ancora più importante, persone più intelligenti di me li accettano completamente. Penso che sarebbe piuttosto ridicolo da parte mia addurre scrupoli di quel genere, come se fossi un giudice, disse Fred con tutta semplicità. Allora, penso che ti sia passato per la testa che potresti essere un bravo parroco senza essere un gran sacerdote. Naturalmente, se sarò obbligato a fare il prete, cercherò di fare il mio dovere, anche se non mi va a genio. Pensate che qualcuno dovrebbe biasimarmi? Per esserti fatto prete in queste circostanze? Dipende dalla tua coscienza, Fred. Fino a che punto hai calcolato i rischi e hai visto cosa richiederà da te la tua posizione. Posso solo dirti, per quanto mi riguarda, che sono stato sempre troppo negligente e di conseguenza mi sono sentito imbarazzato. Ma c'è un altro impedimento, fece Fred arrossendo. Non ve l'ho detto prima, anche se forse posso aver pronunciato delle parole che ve lo hanno fatto indovinare. C'è una persona che mi è molto cara. L'amo da quando eravamo bambini. Miss Gert, suppongo, disse il parroco, osservando attentamente alcune etichette. Sì, non mi importerebbe di niente se lei mi accettasse, e allora so che potrei essere una brava persona. E pensi che ricambi i tuoi sentimenti? Lei non lo ammetterà mai. E molto tempo fa mi ha fatto promettere di non tornare a parlargliene. E si oppone in particolar modo all'idea che io faccia il prete, lo so, ma non posso rinunciare a lei. In effetti penso di starla a cuore. Ieri sera ho visto Mrs. Gerth e mi ha detto che Mary era la canonica di Lowick con Miss Fairbrother. Sì, è stata così gentile da andare ad aiutare mia sorella. Vuoi andare là? No, voglio chiedere un favore a voi. Mi vergogno a importunarvi in questo modo, ma Mary potrebbe ascoltare quello che voi le dite se affrontaste l'argomento, voglio dire il fatto che mi faccio prete. È un compito piuttosto delicato, mio caro Fred. Dovrò dare per scontato il tuo affetto per lei e affrontare l'argomento come tu desideri che io faccia significherà chiedere di dirmi se lo contraccambia. Questo è ciò che voglio che le diciate, disse Fred senza mezzi termini. Non so che fare se non conosco i suoi sentimenti. Vuoi dire che ti lasceresti guidare da essi per diventare prete? Se Mary dicesse che non mi accetterebbe mai, tanto vorrebbe sbagliare in un senso come in un altro. Queste sono stupidaggini, Fred. Gli uomini superano il loro amore, ma non superano le conseguenze della loro sventatezza. Non il mio genere d'amore. Non sono mai stato senza amare Mary. Se dovessi rinunciare a lei, sarebbe come cominciare a vivere su delle gambe di legno. Non si irriterà per la mia ingerenza? No, ne sono sicuro. Vi rispetta più di qualsiasi altro e non vi scoraggerà scherzando come fa con me. Naturalmente non avrei potuto dire o chiedere a nessun altro, tranne a voi di parlarle. Non c'è nessun altro che potrebbe essere così amico di entrambi. Fred tacque un momento e poi disse in un tono piuttosto lamentoso: E dovrebbe riconoscere che ho lavorato per essere promosso. Dovrebbe credere che mi darei da fare per amor suo. Ci fu un attimo di silenzio prima che Mr. Fairbrother interrompesse il suo lavoro e, tesa la mano a Fred, dicesse: Molto bene, ragazzo mio, ti prometto che farò ciò che desideri. Quello stesso giorno, Mr. Fairbrother si recò alla parrocchia di Lowick sul cavallino da sella che si era appena procurato. Decisamente sono un vecchio gambo, pensò. I giovani arbusti mi stanno spingendo in disparte. Trovò Mary nel giardino, intenta a raccogliere rose e a spargerne i petali sul lenzuolo. Il sole era basso e alti alberi gettavano la loro ombra attraverso i sentieri erbosi dove Mary stava camminando senza cappellino né parasole. Non si rese conto che Mr. Fairbrother si stava avvicinando rasente l'erba e si era appena chinata per fare una ramanzina a un piccolo terrier nero e marrone che insisteva a voler camminare sul lenzuolo e a fiutare i petali di rosa come Mary gli sparpagliava. Gli prese con una mano le zampe anteriori e sollevò l'indice dell'altra mano mentre il cane increspava la fronte e appariva imbarazzato. Fly, fly, mi vergogno di te! Mary stava dicendo con un tono grave di contralto. Questo non si addice a un cane intelligente. Chiunque potrebbe pensare che fossi un giovane signore stupido. Siete spietata con i giovani signori, Miss Garth, disse il parroco a 2 metri da lei. Mary balzò su di scatto e arrossì. Serve sempre a far ragionare Fly, disse con aria allegra. Ma non i giovani gentiluomini. Alcuni penso di sì, dato che diventano uomini eccellenti. Sono lieto di questa missione, perché proprio in questo momento desidero che rivolgiate il vostro interesse a un giovane gentiluomo. Non stupido, spero, disse Mary, riprendendo a raccogliere le rose, sentendo il cuore batterle per un senso di disagio. No, per quanto forse la saggezza non sia il suo forte, ma piuttosto l'affetto e la sincerità. Tuttavia, c'è più saggezza in queste due qualità di quanto la gente sia portata a immaginare. Da questi indizi spero che capiate a quale giovane gentiluomo alluda. Sì, penso di sì, disse Mary con coraggio mentre il volto le si faceva più serio e le mani le divenivano più gelide. Deve essere Fred Vincey. Mi ha chiesto di chiedere il vostro parere per decidere se diventare prete. Spero che non penserete che io abbia consentito a prendermi una libertà nel promettergli di farlo. Al contrario, Mr. Fairbrother, disse Mary, lasciando perdere le rose e incrociando le braccia, ma incapace di alzare gli occhi. Ogni volta che avete qualcosa da dirmi, mi sento onorata. Ma prima di affrontare quell'argomento, lasciatemi appena accennare una cosa che vostro padre mi ha detto in confidenza. A proposito, è stata quella stessa sera in cui un'altra volta ho compiuto una missione da parte di Fred, proprio dopo che era partito per l'università. Vostro padre mi disse quello che era successo la notte della morte di Firthstone, che vi rifiutaste di bruciare il testamento e mi disse che avevate qualche scrupolo di coscienza in merito, perché eravate stata il mezzo innocente che aveva impedito a Fred di ottenere le sue 10.000 sterline. Mi sono ricordato di questo e ho sentito qualcosa che può sollevarvi l'animo a questo proposito, che può mostrarvi che nessun sacrificio espiatorio vi è richiesto per questo. Mr. Fairbrother tacque un momento e guardò Mary. Egli intendeva dare a Fred tutti i vantaggi, ma sarebbe stato bene, egli pensò, sgombrarle la mente da ogni pregiudizio, del tipo che le donne talvolta nutrono quando fanno a un uomo il torto di sposarlo come atto di espiazione. Le guance di Mary avevano cominciato un po' a scottare ed era muta. Intendo dire che la vostra azione non comportò nessuna differenza per il destino di Fred. Ho scoperto che il primo testamento non sarebbe stato legalmente valido dopo che l'ultimo era stato bruciato, non avrebbe retto se fosse stato contestato e potete star certa che lo sarebbe stato. Così, su questo punto, vi potete sentire la coscienza a posto. Vi ringrazio, Mr. Fairbrother, disse Mary con serietà. Vi sono grata per esservi ricordato di quello che sentivo dentro.